E questo uomo lui non cede, questa gente più non crede, questa donna più non crede, la speranza se ne muore. Cerchi sogni, cerchi gloria, ma qui più niente succede. Mangio terra, mangio odio, vivo dentro una prigione. Voglio la luna, uomo, voglio la luna, uomo, voglio la luna. Richiede solo felicità. Io voglio soldi, denaro, potere, notorietà. Semplicemente ambizioso, vivo di necessità. Uccido il prossimo, fanculo, qui non si gioca. Non prego dei e non seguo questa stupidità. Io non mi piego e non credi in questo nuovo al di là. Materialista, ma materialista sì, perché in fondo raccontano solo falsità. E se tu vivi di poco, io voglio molto. E se tu parli di pace, non ti conosco. La povertà l'ha portata qui Gesù Cristo, sponsorizzata, seguita da nessun Cristo. Cuna di un ago, il ricco e il cammello, denaro a fiumi, la coda nel bordello. Io loro voglio il santo dentro al marmo, voglio la luna e non rompetemi il cazzo. Questo uomo lui non cede, questa gente più non crede, questa donna più non crede, la speranza se ne muore. Cerchi sogni, cerchi gloria, ma qui più niente succede. Mangio terra, mangio odio, vivo dentro una prigione. Voglio la luna, uomo, voglio la luna. Mi fai schifo, io amo il rischio. Fanculo a questi rapper, di quello che pensi me ne infischio. Ho cose più importanti, fanculo all'hip hop, amo i contanti. Un bambino che piange per strada, dolore nel cuore, compra il mio disco. Io sono come te, combatto da tempo, i denti stringo. Fanculo a te, scemo, quando rappo io non fingo. G-O-W-T, se cerchi guai, ben uomo bingo. Qui qui sono tutti hardcore, figli di papà ricchi col boss. Criticano tutti, sono rapper vintage a hardcore. B-boy da banca, lavora in banca. La commerciale rap a lui lo stanca. Ma lui non capisce che è popolare. Musica animale da casa popolare. Sì, gotti dal proletariato quello che vuole. Uccidi questa crisi, popolo sognatore. E questo uomo lui non cede, questa gente più non crede, questa donna più non crede, la speranza se ne muore. Cerchi sogni, cerchi gloria, ma qui più niente succede. Mangio terra, mangio odio, vivo dentro una prigione. Voglio la luce.